1968 è l'anno delle contestazioni, delle proteste giovanili in tutto l'Occidente e non solo. In qualche modo quest'onda di cambiamento arriva anche sui campi di calcio, anche se attenuata rispetto a quello che accade nelle università o all'interno dei movimenti giovanili. C'era già stato George Best in Inghilterra, ma anche in Serie A in Italia arrivano dei personaggi rivoluzionari. Sono pochi e il più rappresentativo ha la maglia numero 7 come Best, questa volta la maglia rossa, anzi è granata, la maglia del Torino. Lui è Gigi Meroni, è l'uomo destinato a portare lo spirito del tempo anche in campo. Però il suo sogno e anche il sogno di tutti i suoi tifosi viene fermato improvvisamente, prestissimo, è investito da un'auto in corso Regina Margherita. L'anno successivo i granata cercheranno in qualche modo di proseguire la fiaba, ingaggeranno un giovane molto promettente con i capelli lunghi e ricci, con un modo di giocare che in qualche modo ricorda Meroni, anche per il modo di vestire, per l'allora anticonformista sembrerebbe il degno erede di Meroni. Lui arriva da Rivolta d'Adda in provincia di Cremona, ha 21 anni, si chiama Emiliano Mondonico. Nel dizionario del calcio italiano viene descritto così: allenatore dal carattere forte e dalla parlantina meditata. Il Mondo è un personaggio anche da giocatore, ma, come spesso capita, in senso opposto a ciò che diventerà da tecnico. Ha la destra estrosa e di talento, è uno dei primi giocatori che vivono da veri ragazzi degli anni 60. Capelli lunghi, spirito contestatore, vita non proprio da atleta. Al Torino nel 68 dovrebbe raccogliere l'eredità di Meroni, il suo idolo, ma non sfonda. La carriera di Emiliano Mondonico non lascia grandissime tracce, però è interessante. Gli osservatori lo definiscono un giovane di buone prospettive, dotato di grandi possibilità tecniche, di quelli che se volessero potrebbero diventare dei campioni, se volessero. E sì, perché a Mondonico calciatore manca solo una cosa: la fame per imporsi, l'attitudine al sacrificio. Dopo le giovanili, dopo gli anni con la Cremonese, ha la grande occasione in Serie A con la maglia del Torino, accetta senza esitare la chiamata del presidente Pianelli perché è la realizzazione del suo sogno di bambino, un sogno che aveva coltivato dribblando gli alberi vicino alla trattoria dei genitori a Rivolta d'Adda. Campionato 66-67. Al Pallalido di Milano c'è un imperdibile concerto dei Rolling Stones, altro che Beatles. Ma c'è anche un problema, grosso. C'è da giocare e siamo in trasferta a Mestre. Impossibile arrivare in tempo per lo spettacolo. L'unica soluzione è farmi squalificare. E così la domenica prima faccio di tutto per essere espulso. Mando l'arbitro a stendere i panni, ma non riesco a farmi cacciare perché sono timido. E per le prime tre volte dopo ogni parolaccia mi giro dall'altra parte per la vergogna. E lui non mi vede. Al quarto tentativo finalmente vengo scoperto. Allora eri tu! Divento rosso come il cartellino, ma è la liberazione. Concerto assicurato. E questa storia ho avuto il piacere di ascoltarla direttamente dalla voce di Emiliano un bel po' di anni fa, poi vi racconterò quando e come. E il carattere forte di Mondonico già nei primi anni da professionista emerge, alimentato dalla giovane età. Il calcio è importante, ma lui ha anche altre cose per la testa. La musica è la sua grande passione, ama il rock and roll. Questa passione lo accompagnerà per tutta la sua carriera e si circonderà di persone che amano il rock and roll. Rimane a Torino per un paio di stagioni, poche presenze, è un incompiuto da questo punto di vista, non ha spiccato il volo questa carriera e allora è costretto a cambiare Monza, Atalanta e per ultima la Cremonese, la squadra che lo aveva lanciato. A 32 anni lascia per un problema al nervo sciatico, deve pensare al suo futuro, ha due bambine, il marito di una donna che conosce da quando erano bambini loro. E si iscrive al corso per allenatori a Coverciano, all'Università del Calcio, e improvvisamente da calciatore svogliato si trasforma in allenatore in rampa di lancio. È una posizione che fa proprio per lui, insomma la panchina diventa la sua dimensione. Mondonico è il caso emblematico di calciatore, genio e sregolatezza che invece una volta diventato allenatore cambia completamente la sua sua attitudine. Più volte a me ha detto: non so cosa avrei fatto se avessi avuto tra i miei giocatori uno come me. La prima tappa del suo viaggio è proprio nella squadra nella quale lui aveva iniziato e concluso la carriera di calciatore. 2 anni sotto la sua guida ed ecco l'impresa. Per la prima volta nella sua storia la Cremonese arriva in Serie A l'estate del 1984, e io me la ricordo bene quella promozione, intanto perché l'ho vissuta molto spesso dagli spalti, addirittura qualche volta dalla panchina, da una panchina a fianco della panchina della squadra, ma soprattutto poi c'è stata questa festa a Rivolta d'Adda. Siamo arrivati io, la squadra, con una specie di carro di quelli per mettere il fieno, siamo saliti sul palco, abbiamo fatto il concerto e in quella Cremonese c'era già Gianluca Vialli, per esempio. Era una squadra meravigliosa di ragazzi molto simpatici, molto uniti, e insomma Mondonico riesce a portare una squadra che mai aveva visto la Serie A, riesce a portarla nella massima divisione. A gennaio siamo già retrocessi, tornati in Serie B, ma a fine campionato brindiamo lo stesso. Lidholm dice che giochiamo il calcio migliore e gli altri allenatori mi abbracciano e mi fanno grandi feste. Forse me lo diranno solo qualche anno dopo, perché con noi vincono sempre. Mondonico è sempre stato a misura d'uomo, per esempio. Una delle cose che ricordo io, quando la Cremonese giocava in casa, spesso andavo a trovarlo in un ristorante vicino allo stadio. La squadra mangiava e poi ognuno con la sua borsa si andava a piedi verso lo stadio. Cioè, una cosa oggi inimmaginabile, che io ho avuto il piacere proprio di vivere in prima persona. E la dimensione umana, lavorare vicino a casa per lui è importante. Lui a Rivolta d'Adda costruisce una fortezza, una cascina abbandonata che sistema da cima a fondo, si dedica alle sue grandi passioni. Una di queste è la produzione del salame, e lui questo salame se lo porterà in giro anche negli anni successivi, a Como, a Bergamo, dove vivrà anni fondamentali per la sua crescita come allenatore, come uomo. A Bergamo, per esempio, l'Atalanta che retrocede in Serie B, che è in preda a un delirio collettivo, tutti contro tutti, società, tifosi e giocatori. Primo giorno di ritiro estivo, arrivano 300 ultra che si accampano fuori dall'impianto sportivo e iniziano a contestare. Il servizio d'ordine è formato solo da 5 vigili del fuoco e la situazione degenera. Rete di recinzione tirata giù e invasione di campo. Mando i giocatori negli spogliatoi e affronto i tifosi. Sono arrabbiati. Non vogliono sentire spiegazioni. Si fa avanti un ragazzotto particolarmente polemico, insulta tutti, da Stromberg a Incocciati. Lo blocco. Secondo te, hanno fatto apposta a retrocedere lo scorso anno? Secondo te, è così facile giocare a calcio? Ci pensa su. Dici di sì? Bene, allora facciamo una scommessa. Vuoi vedere che non riesci a segnare nemmeno un rigore su 3 tiri? Mondonico mette il pallone sul dischetto del rigore, invita il tifoso a tirare, rincorsa e il piede del tifoso che si inchioda nel terreno. Il primo tiro che ne viene fuori è talmente debole che non arriva neanche in porta. Da dietro si comincia a alzare il coro di scemo scemo per sottolineare la pessima figura. Secondo tentativo, l'ultra che tira di piatto, la palla che finisce fuori, pioggia di insulti e il nervosismo che sale alle stelle. A questo punto Mondonico si avvicina al tifoso, gli consiglia di tirare di collo piede, poi chiama Piotti, il portiere di quell'Atalanta, gli sussurra: devi farlo segnare, altrimenti ti lascio tutto l'anno in panchina. Terzo tentativo, tiro debolissimo che arriva in porta, il portiere che si butta dalla parte opposta, gol. Naturalmente tutti ridono, è un gol che significa pace fatta tra i tifosi e la squadra. Insomma, Mondonico con fermezza ma anche con ironia raggiunge il suo obiettivo e può lavorare con calma per preparare una nuova promozione in Serie A per l'Atalanta. I nerazzurri sono appena retrocessi in B, però nella stagione 87-88 giocano la Coppa delle Coppe, perché l'anno prima sono arrivati in finale di Coppa Italia contro il Napoli, che aveva vinto anche lo scudetto. E Mondonico vuole onorare la Coppa Europea, sa quanto sia un'occasione unica questa, cioè una squadra che gioca in Serie B che va a giocarsi l'Europa. E così, con quel rigore lasciato segnare al tifoso, inizia un cammino entusiasmante. Un'esperienza unica, emozioni intense. Come quando torniamo da Lisbona e all'aeroporto di Bergamo ci sono mille tifosi ad aspettarci. Il pilota ci fa fare il giro della pista con l'aereo per vedere la nostra gente in festa. Tutti si chiedono come sia possibile arrivare così avanti in Europa per una squadra di Serie B. In realtà, in quel momento, per noi è più facile la Coppa che il campionato cadetto. Tatticamente all'estero sono meno preparati. Fregarli è facilissimo. E poi per noi è tutto di guadagnato, mentre in campionato abbiamo l'obbligo di vincere. Beh, è un cammino particolare quello dell'Atalanta in quella Coppa delle Coppe dell'88 e si fermerà in semifinale contro i belgi del Malin. Però una squadra di Serie B che arriva tra le prime quattro in una Coppa Europea è un traguardo incredibile grazie a quell'esperienza. Peraltro l'Atalanta trova la forza e le motivazioni per tornare subito in Serie A. È la seconda promozione in carriera per Mondonico dopo quella con la Cremonese. Però il mondo Mondonico, io l'ho sempre chiamato così, il mondo non è solo uno specialista in promozioni, sta diventando un tecnico stimato e così si guadagna una di quelle chiamate alle quali non si può dire di no. Il Torino lo vuole sulla panchina, lui, l'ex erede di Meroni, l'erede mancato di Meroni, non può resistere al fascino della maglia granata. L'accordo lo facemmo quasi subito. Un primo abboccamento arrivò a settembre dopo una vittoria in casa per 7-0 del Toro sul Pescara, ma non si poteva assolutamente rendere pubblico, pena la squalifica mia e di Borsano. Continuammo a sentirci e a costruire la squadra per l'anno successivo. Qualche giorno prima di Natale mi telefonò il presidente e mi disse di avermi fatto un regalo. Io pensavo a un orologio oppure ad una cassa di vino, e invece Borsano mi annunciò: le ho preso Martin Vázquez dal Real Madrid. Gianmauro Borsano è un ingegnere, un imprenditore, il nuovo presidente del Torino di fine anni 80. Al suo arrivo in Granata dichiara: sono un campanilista incallito, quando vince il Toro sono felice, ma sono contento anche quando vince la Juve. Non l'avesse mai detto, insomma, una frase che non andrà mai giù ai tifosi del Torino. Allora lui vuole rimediare, mette in piedi una campagna acquisti faraonica per una squadra che deve giocare per la Serie B. Arrivano Policano, Musso, Sicois, Lentini, Dino Baggio, Roberto Cravero e poi in panchina un allenatore esperto come Fascetti. Però nella mente di Borsano quel posto è già del mondo, è già di Mondonico che sta allenando l'Atalanta. La trattativa viene portata avanti a fari spenti, annunciata nel giugno del 1990. Il Toro arriva in Serie A, il presidente non bada a spese, mette in piedi una squadra competitiva, altra festa, questa volta a Torino, e anche questa volta Mondonico che mi chiama a suonare, e si torna sotto la mole non per lottare per la salvezza, ma per riportare in alto una società dal passato glorioso e tragico, una società speciale, il Torino. Era destino che incontrassi il Toro, una società che mi ha lasciato un segno profondo. In Granata ho passato 2 anni, certo, non fortunatissimi, anche se segnai qualche gol. La mia vita è stata segnata per sempre dalla sindrome Granata, che oggi mi ha portato sotto la mole per una sorta di ripasso delle proprie origini, di catarsi psicoanalitica. Dentro di me pulsa il vecchio cuore Granata. E il giorno della presentazione Mondonico aggiunge: mi auguro di darvi ciò che ho sprecato tanti anni fa, di prendermi le soddisfazioni che ho gettato via per colpa mia. Stanno per cominciare i mondiali, ma la testa del mondo è solo al Toro. Questa è la sua grande occasione per riscrivere la sua storia e quella del club. Torino è cambiata molto rispetto al suo primo arrivo nel 68, anche Mondonico adesso non è più quel giovane che si sentiva già arrivato, che saltava le partite per andare a vedere il Rolling Stone. Sono passati 20 anni, è tutto un altro mondo, e mondo detto con la M maiuscola. Lui ha dovuto lottare per affermarsi e adesso ha maturato l'esperienza necessaria per sostenere sulle sue spalle il peso di un club come il Toro. prima stagione a Torino, un ottimo quinto posto, qualificazione in Coppa UEFA e la soddisfazione di essere arrivati prima degli odiati cugini bianconeri, prima della Juventus. Per la stagione 91-92 Borsano rimette mano al portafoglio. La stagione però non inizia con il piede giusto, inizia con il derby. L'arbitro si chiama Ceccarini, insomma, chi si intende di calcio capisce quanto la partita fosse da incanalare su binari particolari. Due suoi giocatori, Pasquale Bruno, detto l'animale, e Roberto Policano, vengono indicati da Mondonico come i principali responsabili della sconfitta. Lui non parla dell'arbitro, se la prende con i suoi calciatori, vuol far capire loro che nel calcio bisogna usare la testa, e quella che a lui era mancata quando era giovane e inesperto. Dire che siete stati ingenui è dire una scemenza. Siete stati stupidi, che più non si può. Anche se Casiraghi ha fatto l'attore, tu, Pasquale, ci sei cascato come una mela matura e devi dire grazie ai tuoi compagni che hai gettato nella merda. Se non ti avessero tenuto a bada, oggi saresti squalificato a vita o giù di lì. E tu, Roberto, ti sei fatto infinocchiare come un primavera. Una volta tanto, prima dei muscoli, usate il cervello. E siccome piove sempre sul bagnato, aspettiamoci adesso anche una bella stangata dal giudice sportivo. Eh sì, le provocazioni scientifiche di Ceccarini hanno conseguenze terribili. Stangata per due giocatori, 8 giornate di squalifica per Bruno perché espulso, ha inseguito l'arbitro Ceccarini dopo il rosso e i suoi compagni l'hanno salvato da una squalifica che sarebbe potuto essere un momento terribile per la vita di Pasquale Bruno. 4 giornate a Policano che dà una scarpata in faccia a Casiraghi per vendicare Bruno. Insomma, un derby molto caldo. Da quel momento però inizia una stagione che per Mondonico e per il Torino rimarrà nella storia. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Emiliano Mondonico, calciatore di talento, ma calciatore tutto genio e sregolatezza, e invece allenatore di tutt'altra pasta, è un uomo con modi sinceri, figlio di un mondo semplice come quello di Rivolta d'Adda, al paese dove è cresciuto. È un uomo che diventa un grande allenatore partendo dalla Cremonese, poi l'Atalanta, poi il Torino, e nel 90, dopo 10 anni di gavetta, la grande offerta della sua carriera, appunto il Torino. L'arrivo di Mondonico che ha un impatto più che positivo sulla squadra. Quinto posto, qualificazione in Coppa UEFA, e competizione nella quale il Torino comincia a togliersi delle belle soddisfazioni. Arriva ai quarti, incontra il KB di Copenaghen, squadra che in quel momento era una squadra rivelazione, aveva eliminato il Bayern Monaco. I Granata vincono all'andata e al ritorno, vanno in semifinale. Peraltro è una Coppa UEFA indimenticabile, non solo per il Toro, ma anche per un'altra grande decaduta del nostro calcio, il Genoa. E le semifinali recitano così: da una parte Genoa-Ajax e il Genoa ha eliminato il Liverpool, e dall'altra Real Madrid-Torino. Policano, cross, tiro, cross, buio, pasticcio, Casagrande, gol! Torino in vantaggio! Casagrande sul tiro cross di Policano che ha messo in difficoltà Buio. 1 aprile 1992, il Torino di Mondonico vuol giocare uno scherzo al Real Madrid, un pesce d'aprile non gradito. Arrivano senza paura al Bernabeu, partita tesissima, pubblico caldissimo, inferocito con gli avversari, e alla fine il Real Madrid vincerà 2-1. Il Toro esce a testa alta con un espulso, Policano, Mondonico è imbestialito per diversi torti arbitrali, però insomma lo sappiamo, Real Madrid è in Europa gode di una serie, almeno in quegli anni godeva di vantaggi arbitrali molto clamorosi. Siamo stati malmenati, minacciati, e l'arbitro ha permesso tutto. I nostri tifosi sono stati picchiati in maniera indegna. Quanti ne abbiamo visti arrivare nello spogliatoio pesti e sanguinanti? Non mi aspettavo un trattamento simile da una squadra blasonata come il Real Madrid, che si è dimostrata una pessima società. Vendetta. Terribile vendetta, ma solo sportiva, come è giusto che sia. Tra 15 giorni ci vendicheremo. Due settimane più tardi arriva il giorno della grande vendetta, così disse Mondonico. Si gioca al Delle Alpi di Torino. Il Delle Alpi, lo ricorderete, insomma, è uno stadio particolare, uno di quegli stadi, come disse Del Piero, che hanno il potere di far sentire in trasferta anche la squadra che gioca in casa. Non era mai entrato nel cuore dei tifosi quello stadio, però in quella partita in qualche modo il Delle Alpi diventa una bombonera. Il cuore granata batte forte. Dopo 7 minuti il Torino va in vantaggio e attacca a testa bassa, e al minuto 77 segna il 2-0. Il Real viene eliminato. Venturin, tocco per Scifo, Vasquez di prima, ottimamente per Lentini, Valentini, punta accendo, scatta a fondo campo, Valentini, il cross, la palla è per Fusi, e c'è gol di Fusi, 2-0 per il Torino, 2-0 per il Torino al 32esimo del secondo tempo. Il segreto per battere il Real Madrid non c'è, o forse ce ne sono tanti. Mondonico dimostra di sapere studiare ogni volta una mossa per mettere in difficoltà gli avversari e il loro allenatore. La vittoria col Real da parte di quel Torino è una certificazione di qualità, è un lasciapassare per l'entrata di Mondonico nella storia granata. Lui che aveva fatto del calcio italiano, o del calcio all'italiana, il suo marchio di fabbrica, arriva in finale, se la deve giocare con l'Ajax. L'appuntamento con la storia è per il 29 aprile 1992 al Delle Alpi, finale di andata. L'ultimo scoglio da superare si chiama Ajax, squadra di grande tradizione, sempre capace di proporre nuovi talenti, e non c'è ancora la partita secca. Si disputa la Coppa UEFA finale andata e ritorno, primo round a Torino, ritorno a Amsterdam. Mondonico col suo staff va a visionare gli avversari sul campo, vuole arrivare preparato alla sfida di andata. Ci daranno filo da torcere, hanno gamba, ottima preparazione atletica, fanno bene il fuorigioco. Mi ha impressionato il centrocampo e quel libero che si sgancia spesso in avanti. Non avranno il prestigio e la storia del Real, ma mi sembra che abbiano tanta fame. Ma in quanto a fame, non siamo secondi a nessuno. E gli olandesi vanno in campo con molti talenti: Blind, De Boer, Jonk, Bergkamp. A Torino finisce 2-2 con doppietta di Casagrande. Tutto è rinviato al ritorno ad Amsterdam. Certo, il 2-2 in casa non è un granché. Lo stadio olimpico della capitale olandese peraltro è in ristrutturazione, mancano le panchine, al loro posto sono state messe delle sedie di plastica. A vedere oggi quelle immagini viene un po' da ridere, oggi che ci sono delle panchine che sembrano delle astronavi, e lui invece è lì seduto su una sedia a bordo campo. Per lui, per il mondo, sedersi su una sedia a bordo campo vuol dire iniziare un viaggio che lo riporta indietro nel tempo, alla trattoria che i suoi genitori gestivano, a Rivolta d'Adda, le sedie che magari gli avventori dopo qualche bicchiere di troppo alzavano per aria da utilizzare come minaccia nei confronti del loro interlocutore. Adesso quelle sedie erano lì a aspettarlo per assistere alla partita più importante della sua carriera, la finale di ritorno della Coppa UEFA del 92, una sfida che entrerà nella storia sua e del Torino. I miei genitori, quando io avevo 10 anni, forse meno, gestivano una trattoria in un paese, una trattoria in riva al fiume, una trattoria isolata dove entravano molti, molti, molti clienti. Ed è chiaro che in trattoria allora, ma non solo, dopo le 6 di sera incominciavano i discorsi, quelli paradossali, e sempre finiva assediate, perché io se mi ricordo quegli anni, mi ricordo soprattutto quelle giornate dove due parlottavano, urlavano, si mettevano le mani addosso e poi dopo prendevano le sedie e vinceva chi la dava per primo sulla testa dell'altro. Diciamo che in quel momento queste sedie alzate in trattoria di gente che patapim patapum patapum, mi impressionavano, no? Mi impressionavano i cowboy che andavano, che si vedeva sulla televisione, Pecos Bill che andava pim pum pam con le pistole, ma personalmente mi impressionava questi clienti che si prendevano assediate. E io che fisicamente non ero, diciamo, uno molto molto forzuto, con una sedia, mi dicevo, sicuramente anch'io so fare. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Il 13 maggio 1992 a Amsterdam si gioca la finale di ritorno della Coppa UEFA. In campo Ajax e Torino si parte dal 2-2 dell'andata. La squadra di Mondonica ha un solo risultato a disposizione se vuole sollevare la Coppa, la vittoria. La partita inizia, passano pochi minuti e Cravero, difensore del Toro, entra in area olandese. Arriva questa partita di Amsterdam, Cravero che parte da metà campo, entra in area e davanti alla porta... Tum, in terra. Cavoli, rigore. Eravamo al quarto, quinto minuto, appena incominciato, a Amsterdam, la finale di ritorno di Coppa UEFA. Rigore. Cravero per terra che fa? E si dispera. Perciò io dico, cavoli, a rigore sul serio, questi qua fanno i furbi. E allora, in mano alla sedia, e vado... verso l'arbitro e dico, che ti do una sediata, e lì così ho perso completamente, sai, il fatto di far finta, ecco, perché ti dico, è difficile far finta per uno che ama. Sì, è difficile far finta per uno che ama. È una frase che esula quasi dal mondo del calcio, d'altra parte Mondonico è sempre stato un po' un poeta. È difficile far finta per uno che ama. E Mondonico solleva in alto nel cielo quella sedia su cui è seduto e diventerà un'immagine indelebile per la sua storia e quella del Torino. Si è fatto prendere dal momento, lui ama quei colori, di fronte a un'ingiustizia non riesce a stare calmo. Sa di aver sorpassato il limite, tutti lo stanno guardando con gli occhi sgranati. Luis Van Gaal, allenatore dell'Ajax, è senza parole, così come tutti quelli che si trovano lì a bordo campo. C'è qualcuno che si spaventa, insomma Mondonico rimette la sedia a terra e torna a pensare alla partita. Mi giro e a 5 metri c'erano questi ragazzi disabili seduti sulle carrozzine che mi guardavano spaventati. Cioè, io avevo la sedia in mano, questi, una decina di ragazzi disabili sulla sedia, che mi guardavano come per dirmi, ma cosa stai facendo? E questa sedia piano piano è caduta per terra. Cioè, volevo chiedere scusa. Infatti l'ho messo giù e gli ho detto, scusate. E mi sono girato ed è continuata la partita. Perché dopo anch'io mi sono spiegato, ma sei scemo, cosa fai? Alzi la sedia, continua. Cioè, ma dove sei? Che devi essere? All'osteria? E infatti ero all'osteria con la sedia in mano e meno male che ho guardato negli occhi questi ragazzi e ho capito che la vita è fatta di ben altre cose, dove sicuramente la sedia non c'entra niente. La finale di ritorno finirà 0-0 e tutte le volte che mi è capitato di incontrare qualcuno dei giocatori che hanno partecipato a quella finale, la frase è sempre stata la stessa: dimmi un'altra squadra che può perdere una finale senza perdere una partita e prendendo due pali e una traversa, solo il Torino. E infatti così è, insomma, la storia granata è piena di episodi letterari ma anche drammatici. Per Mondonica è una delusione terribile, anche se hanno compiuto comunque un'impresa. Il Torino non è mai arrivato così in alto in Europa. L'anno successivo arriverà la vittoria in Coppa Italia contro la Roma, è l'ultimo trofeo conquistato fino a questo momento dal Torino. La favola però dura poco. Borsano finirà nel tritacarne di Mani Pulite, verrà addirittura anche arrestato, la società va in crisi, anche Mondonico deve lasciare Granata. Ci tornerà qualche anno dopo al Torino, ma ormai niente più come prima. E nel frattempo continua la sua carriera da maestro di promozioni, l'ultima nel 2004 sulla panchina della Fiorentina, che peraltro stranamente era la sua squadra del cuore. Lui riporta in Serie A i Viola dopo il fallimento, insomma un motivo per lui di grande orgoglio. E poi le ultime imprese, la salvezza in Serie B con l'Albino Leffe e poi l'inizio di una sfida contro un avversario duro a morire. A fine gennaio del 2011 devo sottopormi a una piccola operazione. C'è da togliere una formazione di grasso, una cosa di poco conto. Così mi dicono. Non ci penso nemmeno troppo, il venerdì faccio un esame, e la domenica sono in panchina con l'Albino Leffe e il lunedì in sala operatoria. alla risveglio le parole del chirurgo, pesanti, di quelle che ti rimbombano dentro. Mondonico era una massa tumorale e la situazione non è preoccupante, ma dovrà controllarsi periodicamente con una serie di esami. Tumore, capito? Già, tumore. Prima le cose del campo, prima si salva l'albino Lefe e poi bisogna pensare anche a salvare se stessi. È ottenuta la salvezza, Emiliano Mondonico affronta un intervento, 7 ore, rimozione di una massa tumorale di 5 kg, riabilitazione ed eccolo di nuovo in pista. E me lo ricordo nel 2012 all'ultima chiamata al Novara, in Serie A, il Novara quell'anno retrocederà, ma io mi ricordo il Novara che batte l'Inter 1-0 a San Siro, gol di Caracciolo, e io che quasi, insomma, non dico che sono contento, ma penso al mio amico Mondonico che realizza l'ultima grande impresa della sua carriera. Intanto ha cominciato a scrivere anche per il Corriere della Sera, che è un modo per non pensare alla sua malattia, alla malattia che sta combattendo. E Mondonico, dopo l'avventura col Novara, che finirà presto, non rimane con le mani in mano, si dedica alla famiglia, alla sua comunità, al suo paese, rivolta ad Adda, e lì allena i bambini dell'oratorio e poi una squadra di persone che stanno lottando contro le loro dipendenze, droga, alcol, gioco d'azzardo. Lo fa fino all'ultimo, fino a marzo del 2018, quando alla fine quel male che aveva sconfitto tante volte se lo porta via per sempre. Il giorno del suo funerale, alla fine di marzo del 2018, si compie un ultimo miracolo sportivo targato Emiliano Mondonico. Per un giorno 3 curve, quella dell'Atalanta, quella della Fiorentina e naturalmente quella del Torino, si trovano a rivolta d'Adda per salutare per l'ultima volta quello che per loro era il mondo, il mister, un grande uomo che anche nei momenti di difficoltà, anche quando la salute non gli ha più permesso di lavorare, non ha perso la sua dignità. È un uomo unico, ve lo assicuro, un allenatore, un padre di cui difficilmente ci dimenticheremo, e la sua storia così bella rimane nel nostro podcast a vostra disposizione per le altre segnalazioni. Scrivetemi e sapete dove trovarmi. Io sono qui, vi aspetto. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Fabio Donolato. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.